Come mi scusi? È un prigioniero politico? Sì. Dunque? Dunque. Insomma, lei è di destra o di sinistra? Porca miseria. Sinceramente. Sinceramente. Non me lo ricordo. Si sforzi di ricordare. Non me lo ricorda, sa? Porca miseria. Bella domanda, adesso. È un suo dovere saperlo. Non c'è problema. Sono di sinistra o di sinistra. Porca miseria. Non me lo ricordo. Mi sta picchiando, buon culo, mi sta picchiando. Ma no! Ti sto trattando come un figlio! No, ma lo potrei rendermi! Devi avere un indirizzo politico, perché la politica ti consente di ritrovarti, di dare una identificazione al tuo essere. Ma buon culo! Il principio socratico che noti, Sauton! Mi sta picchiando, buon culo, mi sta picchiando! Conosci te stesso! Ma non è una picchiuta, ammazza! Buonasera Brusca. Buonasera, un attimo al microfono, ecco. Buonasera a tutti i bruschettini e le bruschettine e i bruschettin con l'asterisco. Il bruschettin asterisk. Cara, a che punto siamo? È tanto, tanto, tanto difficile, tanto. Ci stiamo districando fra questa sinistra e questa destra. E, non si sa più. Non è semplice. Non è semplice né nella vita quotidiana né nel mondo della linguistica. Arduo compito, arduo compito quello di riconoscere. Sapete, sai? Oh, è difficile riconoscere, ma con il nostro sottofondo. Okay, great. Riusciremo finalmente a distinguere la destra dalla sinistra. Come siamo partite l'office? Vedi la giornata uggiosa. Beh sì, c'è tanto freddo, tanto umido. Fa proprio schifo Firenze in questo tempo. Ieri giornata clamorosa, fantastica. E oggi è così. Tiriamoci su, di morale. Lo diciamo che questa puntata... Certo, sì, bisogna dirlo per onestà. Stiamo registrando questa puntata, quindi se, che ne so, giovedì succede qualcosa di eclatante, non ne parliamo per questo motivo, perché oggi non è ancora giovedì. Noi ne saremo ignare di tutto ciò che potrebbe accadere di eclatante, tipo, non so, scoprono che il wombat è emigrato in Italia, le migrazioni wombattiane in Italia, noi al momento non lo sapremo ancora. Però siamo abbastanza in tempo per poter dare dei cenni a riguardo a quello che è successo con la Crusca Vera. perché allora, abbiamo assistito al dibattito, quindi siamo abbastanza in tempo per poterne parlare, ma non ne parleremo. Vi facciamo giusto, insomma, sapere che lo sappiamo, che cosa è successo. Non scrivetecelo per mail. È stato detto di tutto, di più. È stato transitivo, sì, intransitivo, sì, sì. Ma quale complemento regge? Ma soprattutto è un argomento che è stato trattato da chiunque in qualsiasi tipo di trasmissione, quindi noi non ne parleremo. Non ne parleremo oggi, ma non ne parleremo oggi, a vicenda conclusa, ecco. Perché in realtà è molto carino vedere come qualsiasi notizia in realtà faccia notizia, anche un argomento che è notizia, non è, perché se sapete come funziona il sito della Crusca, la Brusca non ce l'ha un sito. Insomma, così. Ma ve ne parliamo la prossima volta, ecco, non vogliamo dilungarci, anche perché il tema di oggi, se la volta scorsa era la sinistra, per la par condicio, questa volta sarà la destra, ero la nostra salamandra sotto, senza, ce lo ricorda. Senza alcuna simpatia, però, in generale. No, assolutamente. Let's try it again, but we changed it. Un saluto a Simone Pillon dallo studio di Wombat. Left. Right. E che dire? Facciamo un ripassino della puntata precedente, giusto un riepilogo veloce. Ma abbiamo parlato tanto della sinistra, esatto, del focus e del topic. Esatto, tema e rema. Brava. E di come effettivamente un dislocamento, come funziona il dislocamento a sinistra delle frasi, e oggi parleremo invece del dislocamento sulla derecha. Tutto alla derecha. Ma che cos'è questa dislocazione a destra? Siglata anche con DD, Domodossola Domodossola. Mamma mia, veramente terzo Reich questa cosa, anche nella linguistica, non ce ne liberiamo. Allora, la dislocazione a destra è un fenomeno linguistico la cui struttura è caratterizzata dalla presenza di un pronome che viene detto superfluo, sintatticamente superfluo, ed è collocato all'inizio dell'enunciato per anticipare un nome o un sintagma con funzione di complemento oggetto indiretto o diretto anche. E nella mia testa è solo indiretto, non so perché, ma vabbè. E che ha quindi la funzione di conferire al parlato un'enfasi maggiore, una maggiore intensità espressiva rispetto a una struttura sintattica non marcata con la classica disposizione soggetto-verbo-oggetto. Io mangio la mela, che è la classica disposizione degli elementi nella frase italiana. Non c'è più la salamandra. Eccola. Eccola qui. Right. Vai, facciamo qualche esempio. Left. Allora, ordine non left, marcato di dislocazione right, a destra. È molto semplice, no? Left. Right. Mario compra salamandra, il pane. Lo compra Mario, il pane. Domenica vado in discoteca. Ci vado domenica in discoteca. Per dire, no? Vado in discoteca. Forse l'informazione del complemento di tempo è superflua, diciamo che non intacca il senso della frase. Di conseguenza, shift la possiamo spostare sulla destra per dare maggiore enfasi al discorso. Ci vado domenica in discoteca. Ho visto tanti film, ne ho visti tanti io di film. Come cambia anche. Poi ovviamente l'intonazione fa il suo gioco, però come sempre. E la dislocazione a destra, detta anche DD, il mio nome è DD, trova la diciamo massima diffusione nel parlato spontaneo di questi ultimi decenni. Stiamo leggendo decessi. Bene. Ma non è da considerare un fenomeno del tutto nuovo, perché pensa un po', questa scaletta che mi ha preparato la Nenia stasera mi ha svelato una cosa bellissima che io non conoscevo, che i primi esempi risalgono già alla letteratura del 200. E questo die gli demo a Bonizzi, Livere 500, sono i testi fiorentini, e questo frammento è datato diciamo tra il 1272 e il 1277. Poi, onde io sono tenuto di renderla loro, la carta, nuovi testi fiorentini di 20 anni dopo più o meno, 1290. Che né uno cavaliere non gli potea durare innanzi a lui, Tristano Ricciardiano del XIII secolo, quindi siamo sempre più o meno alle 1200. Poi abbiamo anche ovviamente esempi non solo più recenti ma anche poetici, per cui con un uso dell'enfasi diverso da quello del parlato. Ho messo anche Giannino. Giannino Pascolino, Giovannino Pascolino, che nel suo poema Il Vischio dice: non ricordi più, non li ricordi più dunque i mattini meravigliosi. E questa è, diciamo, una prima carrellata di esempi per farvi capire come in realtà una cosa così semplice nella nostra lingua sia poi regolamentata da una funzione sintattica molto particolare che può sembrare complicata, e invece no. Ma posso mettere una tresciata di quelle proprio da van spettacolo? Noi non siamo la trasmissione più trash. Questa di è la tresciata per eccellenza. Vai, la voglio sentire questa. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Evviva Berlusconi e Luca Vidalismo, le società per azioni, evviva l'ugunsumismo, evviva pure Maroni e l'ufederalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna. Evviva gli stranieri, evviva l'integrazione, ma solo se so femmine e solo quelle buone. Evviva il Parlamento, che bella istituzione, ci vai una volta al mese e ti porti la pensione. Evviva Brunetta, persona come si deve, evviva tutti e sette, evviva Biancaneve. Evviva la russa che sa fare la difesa, e Matteoli che sa fare strade e viali, evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e la Gelmini che sa fare i... questa è malafede però. Ha ragione Claudio, non puoi. Lasciami stare. Checco. Checco. Non guardare l'ora, non c'entra l'ora. Non si dice a nessuna ora. No. No. No. Antonio, basta. No. Mio, Checco, guardami. Una cosa, secondo me li sa fare. Cosa? Le riforme. A noi ci piace l'Ucremiulu e l'Umaestro Tulu. Maestri. Alla sera fa culo. Arriva il centro-destra. Hai ballato. Ho cantato anche. Ballato e cantato, ammettiamolo. La tarantella del lucentrudestra. La tresciata ve l'avevo sì. Promessa. Io, la Nenia e Dio, stavamo considerando. E che Dio, c'è un Dio, e lui, Dio, lassù. O laggiù, dipende. Ah, e... di là, quello là. Che ci sono un sacco di... destroidi convinti che Checco Zalone sia un comico di destra, ma ci sono anche tanti sinistrosi che sono convinti che Pucci, un comico terrificante, terribile, sia, cioè, non sono convinti che sia di Casa Pound, invece lo è. Mamma. Quindi La Brusca è la trasmissione che ti informa anche sulla situazione della comicità italiana, che comicità langue. Trash. Langue. E quindi, spostiamoci dal contesto comico-politico, troglo-politico-comico, ai contesti d'uso del nostro DD, della nostra dislocazione a destra. Allora, se nel parlato spontaneo si registra, insomma, perché comunque ricordiamo che tutto ciò che è dato linguistico è dato che viene registrato generalmente, le occorrenze vengono registrate dalla lingua parlata e poi catalogate e classificate, così come nelle occorrenze scritte. E appunto, se nel parlato spontaneo si registra una minore diffusione della dislocazione a destra rispetto a quella di sinistra, c'è comunque un ampio spettro di cosiddette espressioni rituali o convenzionali in cui è presente il dislocamento a destra e che sono parte integrante della comunicazione di tutti i giorni. E ne abbiamo riportato qualche esempio. Tu lo sai che, puntini puntini, quindi una domanda, ma te ne ho già parlato di... Ce l'hai una... Te l'hanno già detto che io lo so che... Oppure, sempre soggetto sottointeso, non ci capisco niente di... Invece che dire di matematica non ci capisco niente. Me l'avevano o l'hai detto che... E così via, no? Oh, veniamo col primo nome della trasmissione di oggi. Tale Rossi, linguista contemporaneo. Gli studi di Rossi nel 96, 97, nel 99 e nel 2000 ci hanno dimostrato che nel parlato filmico, nella lingua televisiva e pubblicitaria, ovviamente pubblicitaria, qua si tocca un tasto, dovremmo fare una trasmissione prima o poi sul meccanismo linguistico pubblicitario, sì, sulle figure retoriche. La presenza di dislocamento a destra è più ricca ed è notevolmente superiore rispetto al dislocamento a sinistra. E invece, per quanto riguarda quello che è il parlato spontaneo, questo dislocamento a destra non è da considerarsi come un semplice rovesciamento del dislocamento a sinistra, perché le due dislocazioni hanno valenze comunicative che sono sostanzialmente diverse. Ovviamente non è relata, diciamo, a fenomeni di varietà diatopica, diastratica o diafasica, per cui insomma in vari diciamo livelli di differenziazione linguistica, ma si tratta di un fenomeno pan italiano, bellina questa parola, quindi determinato semplicemente da dei livelli di ritualità comunicativa e di scambi dialogici con una funzione ben precisa, che è quella di coinvolgere nella maniera migliore possibile il destinatario in quello che è un passaggio di informazioni dal dato al nuovo, quindi nel nostro famoso nema e rema. E infatti non è un caso che la frequenza massima di dislocamento a destra sia stata poi registrata soprattutto negli enunciati esclamativi. Te l'ho detto, devi fare quello. Adesso questo forse è più su una forma imperativa, però. E soprattutto in alcune forme di domanda e risposta. Si tratta quindi di contesti che rispecchiano perfettamente il passaggio dal dato al nuovo e in, diciamo, situazioni in cui l'ambiente tematico è largamente condiviso, no, dai partecipanti a questo scambio. E qui poi sì, ci sarebbe una pubblicità della Buitoni, anche sì, i broccoli a me non piacciono, sì, ci sono tante, tra l'altro la Buitoni che fa pasta pronta ai broccoli, sì, ragazzi. Questa sarà una prossima puntata sicuramente, quella cinematografica e anche quella pubblicitaria, perché merita, sì, soprattutto nel cinema ho trovato diversi articoli interessantissimi, allora vai, non avremo sicuramente tempo di leggerli oggi, però possono diventare una puntata, sono molto interessanti. Volevo far sentire Benone. Ci abbiamo un nuovo audio, un nuovo contributo audio della nostra nenia. Totò. Ah. Questo deve essere un ladro. Ce l'ha come per lui. È un ladro, sicuro. O lo Giovlini. Mi spiace, c'ho il portafoglio con i franchi svizzeri. Parla da solo. Deve essere un mezzo pazzo. Galera di mando. Galera di mando. Questi li chiamano topi di treno. Non cominciamo a fregare le valigie. Non incominciamo a fregare le valigie. Ma voi siete scherzati voi. E ma a me mi hanno avvisato. Ma andiamo. Appena volti la testa ti fregano qualche cosa. Io c'ho il portafoglio, voi franchi. Già di così. Sarà meglio presentarsi qua, va? Insomma, anche questo tra l'altro perfettamente in galera vi mando. È perfettamente in tema con la situazione politica italiana. Peccato, quella cazzo di immunità parlamentare, ragazzi, se no altro che... Aveva proprio ragione Totò. In galera ti mando, eccolo qua, un perfetto esempio di spostamento di dislocazione a destra. sempre, che facciamo? Si continua a parlare degli studi di tal Rossi? Sì, a questo punto sì. Allora, premettiamo che la dislocazione a destra funge da aggiunta, no, appunto esplicativa, che va a chiarire alcune ambiguità e allo stesso tempo provoca un effetto di sorpresa nel nostro, diciamo, nella persona che ci sta ascoltando, catturandone l'attenzione. Quindi fondamentalmente due funzioni, chiarire e evocare. Sempre Rossi, negli stessi studi che abbiamo citato prima, quelli del 96, 97, 99 e 2000, dice che uno dei motivi per cui si verifica una maggiore presenza di dislocazione a destra nel parlato e nel filmico televisivo, scusatemi, che questo è, quindi questa capacità evocativa di questa dislocazione è proprio una delle cause per cui ritroviamo sempre più spesso la DD nella comunicazione televisiva pubblicitaria, perché la comunicazione è sempre in questi casi orientata verso il destinatario esterno e il suo coinvolgimento riveste un'importanza, dice lui, capitale, non è un caso, soprattutto nel panorama televisivo e pubblicitario. Perché è inevitabile cadere nella politica, capito? Oggi come oggi, insomma. E quindi anche gli enunciati esclamativi presentano una forte occorrenza di Allora, è un tratto tipico della tradizione del parlato quotidiano, che è largamente soprattutto presente, poi quello sì, filmico e pubblicitario, che non ha poi bisogno di integrazioni contestuali per le conoscenze condivise, no, da parte di tutti quelli che sono i partecipanti di questo scambio di informazioni. L'esclamativa poi può presentare una struttura marcata ovviamente da un'interiezione, da un pronome, da un avverbio esclamativo, chi, che, quale, eccetera, eccetera, come, quanto, blah, blah. Può oppure valere come una frase completa anche in assenza del verbo e dell'avverbio esclamativo. E ciò è possibile, e questa è una cosa molto carina, no? È possibile solamente se l'elemento anteposto al nome è costituito da un aggettivo, uno e uno soltanto. Di conseguenza possiamo vedere alcune frasi dichiarative e il loro, diciamo, corrispettivo esclamativo. Questo film è triste. Com'è triste questo film? Che triste questo film? Oppure triste questo film? Oppure anche solo triste. Madonna triste. Tristezza. Soprattutto l'ultimo esempio che abbiamo fatto, triste questo film, l'anticipazione dell'aggettivo e la conseguenza dislocazione a destra del sostantivo, quindi triste questo film, insieme alla totale caduta del verbo, cioè non proprio si chiama nominalizzazione questo processo, il verbo è completamente assente, in più gli diamo questa intonazione che discendente che abbiamo appena, triste questo film, consentono di dare alla frase una maggiore efficacia rispetto a questo film è triste, che è caratterizzato effettivamente dall'ordine classico marcato. Questo film è triste. E insomma, sembrava molto più difficile, invece vedete quanto nella quotidianità. Poi ci siano esempi molto pratici di dislocazione. Figuriamoci. Ma hai sentito tutta la faccenda di, di Casa Pound? Ecco, sì. Allora, prima che sgomberino Casa Pound a Roma. Sentite allora, il rumore del drink. Sì. Alla salute! Rido. Allora ci vuole lei. Vai, Vicky. Mi scusi, ma lei chi è? Cosa fa qui? Guardi che adesso torna la conduttrice. Chi è lei? Io? Sto a fare promozione sociale, perché che è? Ma cosa sta attaccando? Cosa c'è scritto su quell'avviso? Qua sopra? C'è scritto non sai più come farglielo capire? Quella persona stavolta ha veramente superato il limite? Contattaci! Casapausvastica@mail.it. Ah, ho capito, Casa Pound, il movimento di estrema destra. No, no, no, non estrema destra, bensì fascisti. Ah, quindi voi proprio vi dichiarate apertamente fascisti? No, no, no, cioè, no fascisti nostalgici, bensì fascisti del terzo millennio! Che stia calma, non è molto chiaro. Cosa intende esattamente per fascisti del terzo millennio? Casa Pau è un'associazione di promozione sociale, ma qua finiscono le chiacchiere, perché Casa Pau agisce, mica lavoriamo al ministero. Ministeriale, ribellati! La vita così come ti è stata confezionata, piuttosto buttala nel cesso! Imperativo categorico! Un attimo, calmi, calmi, vorrei capire cosa sta dicendo, cioè concretamente di cosa vi occupate voi? Noi utilizziamo il volontariato per propagandare con forza. A volte per propagandare usiamo degli oggetti contundenti, altre volte invece uno te regge da dietro e gli altri ti propagandano da davanti. No, scusi, si fermi un attimo. Diamo... No, per piacere, per piacere. Ma... Questa potrebbe essere istigazione alla violenza, perché... Lei per propagandare intende alla fine picchiare, menare? No, no, no, no, no, no, propagandare! Fratello, nel dubbio, propaganda! Vabbè, ho capito, andiamo avanti, stia calma. In quale campo operate esattamente? Operate nel sociale? Di cosa vi occupate? Non so, vi occupate per esempio anche di anziani? Ma certo, che problema c'è? Se rompono le scatole, meniamo pure le vecchie! No, allora no. Si fermi, per piacere! Ho sbagliato! Quindi lei ammette che picchiate! No, no, ho sbagliato! Fare un quadrato! Fare un quadrato! Fare un quadrato! Sì. Si rilassi, qui nessuno ce l'ha con lei. Mannaggia. Si rilassi. Mi spieghi meglio, in cosa consisterebbe la vostra propaganda? Noi promuoviamo una visione risorgimentale, mazziniana, coridoniana, futurista, gentiliniana, mussoliniana. Ma la smetta, lei capisce o no che quello che sta dicendo lo ripete a pappagallo? Cosa ha imparato la lezioncina? Fare un quadrato, ora! No, vabbè, sì, fermi, per favore, no, siamo... Stia calma. Aia. No, lei ha detto un quadrato, ma fare un quadrato si dice nella geometria elementare. Guardi che voi dite normalmente fare quadrato. Lei si confonde anche quando cita i suoi slogan, ma che no, schifo. Lo so come si dice. Fratelli, ribellatevi a questo clima di indottrinamento. Contro tutti i paciofondai al Trattato di Versailles. Vabbè, io sarò un paciofondaio, ma insomma... Torniamo alle cose concrete. Mi dica, da quant'è che lei frequenta Casa Pound? Ma io e Tullio è poco che stiamo insieme. Mi ci ha portato lui. Ah, quindi lei non ci si era mai avvicinata prima? No, prima ero da Roma. Ah, benissimo. Era della Roma, e allora è così. È così. Si sa. Lei ci racconta sempre delle cose molto interessanti. Peccato, troppo bella. Andava avanti per altri 3 minuti, ma insomma. Fare un quadrato, fare un quadrato. Sì, ci stava tutta, perché purtroppo questo tema ci riporta sempre alla politica di destra. E allora vi dobbiamo chiedere il perdono della volta scorsa, intanto. Si era promesso. Sì, dai. Bom. Vai. Che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu, mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata a lui, perdono, perdono. sembravi tu. La mia conterranea, la Caterina Caselli. Ma guarda, più o meno, siamo dalle stesse parti. Sì, ci voleva perché parlando di destra e anche di sinistra si rischia sempre, no, di mandare le grandi trecciate e o passare a parlare di politica, quella becera, non quella vera. E allora il perdono ci stava per i nostri poveri pochi ascoltatori. Le che... povere orecchie dei nostri pochi ascoltatori. A cui vogliamo tanto bene. Quindi. Sì, certo. Quindi, mi è venuto il singhiozzo, scusate. Ma lo sai invece che abbiamo ricevuto un altro wombat dal mondo? No. Wombat nel mondo, interregionale, come ci eravamo ben prefissati. E abbiamo un bellissimo wombat... Nella neve e abbiamo Alpe delle Tre Potenze, un bellissimo wombat, penso nel palo della funivia, una roba da spericolati. Quindi chi l'ha messo riceverà un grande applauso da tutta la Brusca. È molto molto molto bello. Allora sì, diventerà la nostra immagine di copertina del podcast. Meraviglioso, proprio con lo sfondo, capito, delle cime tutte innevate. Che meraviglia, mitico wombat on the snow. Che bello, allora ti devo far spaventare. Foto di Salvini. C'è Salvini alla radio. No. Forse è passato. Sì, sì, un pochino. Ti è venuta la nausea in compenso. O bene. E quindi intanto ripetiamo sì quelli che sono i nostri social wombat: il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, è importantissima per mandarci le immagini delle wombat nel mondo, e o almeno wombatini. Interregionale, postawombat@insiberia.net. Passiamo agli appuntamenti. Allora, non ci siamo sbilanciate tanto perché saltando il giovedì, che invece è il giorno un po' cruciale della movida, del fare del fare, allora siamo rimasti un po' così, un po' slow profile. Slow profile è molto bello. Ci faccio una maglietta sì. Bianca e pennarello nero slow profile. E abbiamo una cosa molto interessante. Vi ricordate quando avevamo parlato del NEMA, che era questo museo autogestito al Next Emerson in via di Bellagio a Firenze? Abbiamo il calendario finalmente delle prossime mostre di febbraio e marzo. E allora ve lo leggo: 2019, febbraio-marzo, dal 9 al 23 febbraio a cura di Ribellarti. Il titolo della mostra è Riconoscete qualcosa? Un oggetto non appare mai come interamente dato. La soggettività gli attribuirà sempre un giudizio, motivo per il quale, in seguito ad una prima visione, le proiezioni e le combinazioni che si apriranno alla nostra mente, sotto forma di ricordo, immagine, saranno ricche di particolari dati dalle nostre emozioni. E allora vi puppate questo, che è bellissimo. Mentre dal 1 al 17 marzo, il tramonto è la ruggine. La ruggine ha un colore caratteristico, alcuni tramonti sono del colore della ruggine. La ruggine forse sarà anche quello che ritroveremo al tramonto dalla nostra civiltà di macchine. Non è detto che il mondo sarà brutto color ruggine, con una predominanza di verde, la vegetazione incolta, penetrata ovunque. Queste sono le copertine e illustrazioni di ruggine in mostra al NEMA. Quindi 9-23 febbraio Ribellarti, 17 marzo, scusate, ruggine. Che dire, che dire. Io andrò di sicuro. Sì, maggiori informazioni le trovate al nema.noblogs.org. Se volete invece mandare una mail al NEMA, usate la mail del CSA ex Emerson, che è assemblea@csaexemerson.it. Anche se volete proporvi come aspiranti espositori o chissà, per dare una mano a fare qualcosa o curare o scrivere o anche solo per curiosità, per saperne di più, mettiamola così. Bene, bene, bene. Chissà se io e la Nenia esporremo mai qualcosa all'Next Steppers. Sì, ho grandi progetti. Sì, sì, sì, sì, dopo te ne io parlerò. Io posso fare solamente l'installazione umana, non ho altro. Bello. No, ho anche un televisore che non funziona più ora che ci penso. Non male. Vai, perfetto, ci ho avuto un'idea. Ma invece mi dicevano che sempre al Next Emerson venerdì c'è una serata molto interessante. Si apre il culturale la rubrica culturale della Brusca con l'appuntamento per venerdì che giorno è? Primo febbraio, era facile. Con ben due film musicati. A partire mi sembra dalle ore 22 più o meno, due film musicati, e non vi vorrei svelare altro. L'uomo brava, sì, sì, sì, sì, sì, teniamoci tutto surprise, sì, surprise. Tutto surprise, ovviamente sul sito del CSA Next Emerson troverete una locandina dettagliata, ma noi andremo a vederlo e siamo molto contenti, insomma, di sapere quale selezione cinematografica è stata fatta, e in particolar modo il film, tra virgolette, inedito che verrà proiettato e musicato. Pensa. E quindi una bella occasione. Ma che altro? Che altro dire? Io penso che siamo arrivati. Gli appuntamenti, in sostanza, basta. Grosso modo. Anche con l'orario, mi sa. Sì, perché sai, non essendo in diretta, siamo un po' più lente. Manca proprio quel brio della diretta. Ci tengo anche a sottolineare una cosa importante della settimana scorsa. Non siamo andate in diretta, siamo andate in replica di una trasmissione che invece due settimane fa non è andata in diretta in streaming per problemi tecnici. Tutta la radio ha avuto dei problemi, quindi se due settimane fa o fino a una settimana fa avete notato che qualcosa non tornava, era perché la tecnologia a volte ci dà contro. Fa un po' cileca. Ma appunto, siamo tornati in forma. E tra l'altro è una settimana in cui non sono io riuscita, per motivi miei di tempo, ad ascoltare la nostra stessa radio con tutte le trasmissioni varie, quindi non so nemmeno citare alcuna nostra trasmissione di Wombat, mi dispiace, perché generalmente lancio sempre ci sono stati problemi con 8 Hertz, che anche 8 Hertz ha, diciamo, in replica la stessa puntata da ben due settimane. E però io volevo fare un piccolo spoiler. Attenzione, attenzione, cari amici del Wombat, perché molto presto partiranno, molto probabilmente, nuove trasmissioni. Quindi sì. E anche il palinsesto che trovate nel sito è aggiornato, ma il sistema tecnico ancora non è stato rivisto. perché stiamo prendendo delle decisioni importanti, quindi se quello che leggete nel palinsesto del sito non corrisponde, non corrisponde, dovete darci ancora un altro po' di tempo, perché stanno arrivando tante nuove sorprese e quindi vogliamo aggiornarlo una volta per tutte, per, esatto, non, per non spiazzarvi troppe volte nell'arco del mese. Esatto, e appunto proprio su questo argomento, diciamo, se riscontrate malfunzionamenti o quant'altro, potete tranquillamente segnalarcelo all'indirizzo di posta che vi abbiamo dato poco fa. Ecco. O anche sui social, ma la posta è meglio. Che dire? Allora, abbiamo detto tutto, giusto? Sì, ci sarebbe in realtà un bellissimo tema tra il cinematografico e le dislocazioni, di cui però vi parleremo la prossima volta. Magari possiamo intanto citarvi l'articolo, di modo che sì, così possiate dargli un'occhiata per poi parlarne insieme, esatto, voi da casa, noi dalla regia. Italiano e oltre. Esatto, Italiano e oltre, il famoso Fabio Rossi che abbiamo citato durante la puntata ha scritto anche questo interessante articolo, te lo dico dislocando. Fenomeni linguistici. L'intonazione e il valore informativo della dislocazione a destra, con esempi dal parlato filmico. E anche qui ne sentiremo delle belle, perché chiaramente andremo a rovistare fra film come Ladri di biciclette, Catene, Nata ieri, Totò a colori e Poveri ma belli. E Le amiche anche di Antonioni. Quindi non so, vedremo un po' come cercare di rendere la puntata interessante, perché poi certo il bel cinema, in sostanza, poi ascoltarne dei pezzi così fa un po', insomma. Beh, ci sono le colonne sonore, Antonioni ha sempre avuto delle colonne sonore molto belle, sicuramente riusciremo, sì, ad arricchire la puntata con qualche cameo piacevole. Quindi se intanto volete dare un'occhiata, te lo dico dislocando, Fabio Rossi, e per stasera è tutto, ci ascolterete in diretta, non vera diretta, una finta diretta giovedì alle 20. E invece in replica sempre per il momento il sabato alle 10 e la domenica alle 15. Allora, ciao a tutti, dopo di noi, per finta ma per davvero, ci sarà 8 Hertz. 8 Hertz e poi tante altre trasmissioni, prima, dopo, durante. Ascoltate Radio Wombat. Ciao, ciao. Sempre, sempre. Ciao. Ciao.